Anquo Alessandro Mina e leggerà i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? 24 mattino. Ci siamo, sono le 7:19 minuti, cari ascoltatori, siamo qui nello spazio dedicato alla rassegna stampa e dunque lo spazio in cui leggiamo i quotidiani, siamo a 24 mattino. C'è Peter Bescapè, regia, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, siamo quasi tutti pronti, andiamo allora. Oh, non sanno di che parlare i giornali, È martedì 7 marzo, cominciamo dai titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, è Peugeot che compra Opel, GM incassa 2,2 miliardi, nasce così il secondo big dell'auto in Europa col 17% del mercato. L'apertura invece del Corriere della Sera, che poi è la notizia prima da cui partirò ad approfondire, calo record delle nascite, l'Italia mai così vecchia, sono i dati Istat. Repubblica, anche questa non è male, e tra poco l'approfondirò. Unione Europea, lo scandalo dei rimborsi, ecco gli italiani sotto inchiesta. È una inchiesta di Repubblica che tra poco vedremo. La Stampa invece, patto a 4 sull'Unione Europea a più velocità. Merkel, assetti variabili o crolla tutto. Gentiloni, ripartiamo da difesa e politiche sociali. Poi c'è la vicenda Consip, Romeo attacca accuse sui conti. Questa è l'apertura del Messaggero. Mentre l'accusatore Marroni è avvisato. Resta in Consip e deve ritrattare. Marroni è l'amministratore delegato di Consip e questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. E adesso è rissa tra i PM, è invece il giornale con la vicenda Consip sempre. Voglio partire, allora dai, approfondiamo qualche lettura. Avete capito, i titoli sono vari e l'apertura del Corriere della Sera è dedicata agli ultimi dati Istat e a un'Italia che invecchia sempre più. In un anno solo 474.000 neonati, mai così pochi nella storia d'Italia. Racconta il Corriere a pagina 8, si fanno meno figli di sempre. La popolazione invecchia, è triplicato negli ultimi 6 anni il numero di italiani che decidono di trasferirsi all'estero. Se non fosse per la ripresa dell'aumento della speranza di vita, dopo la sorprendente diminuzione che si era registrata nel 2015, non ci sarebbe nulla di cui rallegrarsi negli indicatori demografici del 2016 diffusi dall'Istat. L'Italia ha urgente bisogno di invertire la tendenza al calo delle nascite, altrimenti sarà difficile guardare con ottimismo al futuro. Non sono mai nati così pochi bambini come nel 2016. Appena 474.000, ancora meno dei 486.000 del 2015. La fecondità è ridotta a 1,34 figli per donna, era 1,35 l'anno prima, che è la media tra i figli per donna straniera residente in Italia, 1,95, e quella più bassa per donna italiana, 1,27. L'età media dei residenti al 1 gennaio 2017 sale a 44 anni e 9 mesi. Le persone con più di 65 anni sono ormai i 13 milioni e mezzo e di più. Quelle con più di 80 anni, 4 milioni e 100 mila, sono il 6,8% della popolazione. Gli ultranovantenni, 727 mila, ci sono 17 mila residenti con più di 100 anni. Il record degli ultracentenari in Liguria, 50 ogni 100.000 residenti davanti al Molise. Questi i dati. Giulio Meotti ne scrive sul Foglio in prima pagina, parlando con due demografi anche molto quotati, Antonio Golini e la professoressa Antonio Golini e Rosina, sono due demografi molto quotati che vengono intervistati. Golini insegna alla Sapienza, già presidente dell'Istat peraltro, ed ecco che cosa dicono. I dati Istat suonano ancora a morto per l'Italia, nuovo record negativo di nascite. Dice Antonio Golini, un paese funziona se mette le nuove generazioni nelle condizioni di intravedere un ruolo nel futuro. È il secolo degli anziani, come ha scritto nel suo saggio per il Mulino. Cosa succederà? Beh, sempre meno l'immigrazione compenserà il divario. Avremo sempre più morti, le nascite saranno schiacciate in una spirale negativa che trascinerà verso il basso il paese. L'Italia è un laboratorio di questa perdita di popolazione. Non a caso, alla fine degli anni 70, ci fu l'aumento del debito pubblico che coincise con l'inizio della crisi demografica. Si va verso un'Italia di 45 milioni di persone. E questo è l'allarme. Poi ovviamente tutti a pensare alle ricette, al perché non si fanno figli, alle politiche probabilmente per agevolare i figli da parte dei più giovani, politiche che mancano sicuramente in Italia. E però i dati e gli allarmi dei demografi, che non ragionano a 2 anni, a 3 anni, a 5 anni, ragionano a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni, in proiezioni statistiche, sono dati certamente allarmanti. Oggi sui giornali torna la vicenda di DJ Fabo, che a 40 anni è andato in Svizzera, ormai lo sapete, per scegliere la strada del suicidio assistito. Perché torna la sua vicenda sui giornali? Perché venerdì, come ha annunciato la sua fidanzata, ci sarà un ricordo nella parrocchia di Sant'Ildefonso a Milano, con il via libera della curia, che dice la cosa più naturale. Non sarà una messa, non sarà una commemorazione, non sarà un funerale, ma una preghiera in chiesa alle 19 con la mamma, la fidanzata, gli amici. E c'è questa questione: Fabo, cresciuto qui, perciò con sua madre pregheremo per lui. C'è anche un'intervista al portavoce del Cardinal Scola, Don Davide Milani, intervistato da Andrea Tornielli sulla Stampa, che dice: è un gesto di compassione cristiana e di preghiera. Sarebbe triste se si speculasse su questo. Questo succede, esprime il desiderio, il gesto della parrocchia, della comunità cristiana di essere vicina alla madre che ha perso un figlio e a tutti coloro che soffrono per la sua morte, insieme pregare per il defunto. Ma è un fatto nuovo questo pregare per chi si è tolto la vita di fatto? No, da sempre la Chiesa prega per i defunti, così racconta di questa commemorazione. Tra l'altro oggi su questo tema è interessante la maca, molto interessante a mio modo di vedere, la maca di Michele Serra, perché ce l'ha un po' con tutti quei laici che vogliono una Chiesa a propria misura. La Chiesa è la Chiesa, ha le sue regole, o si sta dentro o si sta fuori. E scrive Michele Serra: si capisce il conforto di chi, come la madre di Fabiano Antoniani, può salutare in chiesa il figlio che ha deciso di morire. Più in generale, l'idea di una chiesa accogliente e non respingente è più rassicurante per tutti, credenti e non. Eppure rimane, in questa come altre vicende, la sensazione di una non richiesta identità d'animo e di vedute e di comportamenti, nei due sensi. Come se alla tradizionale soffocante ingerenza della Chiesa nei confronti dei non cattolici si sommasse quella dei non cattolici nei confronti della Chiesa. Chi sceglie di non sottostare a regole e dogmi nei quali non crede deve fare senza, perché lo ha scelto e perché la rinuncia a quelli che una volta si chiamavano i conforti della religione non deve sembrargli una menomazione, semmai una conquista. Alla Chiesa è giusto chiedere di non intromettersi nelle leggi dello Stato, che sono di tutti. Più discutibile è pretendere che quella comunità si adegui a convincimenti, costumi, sentimenti che esistono, e come se esistono, comodamente al di fuori della Chiesa. È come se moltissimi laici, sotto sotto, si sentissero transfughi in cerca di comprensione e perdono. Bisognerebbe abituarsi meglio a una rispettosa diversità di vedute, gli uni amici degli altri, ma senza obblighi. E io sottoscrivo in toto. In tutto siamo all'articolo, più che un articolo, è l'apertura di Repubblica, l'inchiesta che mi fa della giornata. Perché siamo allo scandalo dei rimborsi dell'Unione Europea. Alberto D'Argenio racconta, 2 pagine, pagina 2-3, racconta intanto lo scandalo degli abusi dei partiti, spesso i partiti euroscettici, come il partito del Front National di Marine Le Pen, che ora dovrà restituire 1 milione di euro, 1.100.000 euro, perché hanno finanziato con finanziamenti europei, per esempio, anche la Guardia del Corpo di Marine Le Pen. Oppure la badante della madre dei gemelli Kaczynski, pagata con denaro dei contribuenti europei da parte dei nazional conservatori polacchi di diritto e giustizia. E ancora, lo UKIP, ricordate, UKIP, Nigel Farage, quello più anti-europeista che ci sia, accusato di avere utilizzato fondi dell'Unione Europea per fare campagna per la Brexit, per uscire dall'Unione. Beh, questa è quasi del geniale. E ci sono, a pagina 3, anche gli italiani. Eccoli qui. Alberto D'Argenio racconta, per esempio, la storia di Lara Comi, parlamentare di Forza Italia, attualmente vice capogruppo del Partito Popolare Europeo. Deve restituire al Parlamento 126.000 euro perché dal 2009 al 2010 ha assunto come assistente locale la madre, la signora Luisa Costa, pagata con soldi dell'Assemblea in violazione delle regole che impediscono ai deputati di ingaggiare genitori, figli e parenti. E ha deciso di restituire i soldi, ripianerà il debito entro il 2019. Poi ci sono due del Movimento 5 Stelle, Daniela Aiuto e Laura Agea. Aiuto, scrive Repubblica, ha chiesto il rimborso di una mezza dozzina di studi sul turismo, peccato che siano stati plagiati, copiati da Wikipedia. Questa è l'accusa. La seconda indagine interna sui grillini riguarda la parlamentare Agea. I sospetti riguardano un suo assistente locale che dovrebbe svolgere un'attività legata al mandato europeo, ma in realtà è un imprenditore. Per questo a Strasburgo si chiedono come possa prestare il suo lavoro al servizio della parlamentare. E poi vicende del passato come Massimiliano Bastoni, assistente del leghista Borghezio. In questo caso lui era anche consigliere comunale a Milano. Anzi, consigliere municipale a Milano, ed è finito al centro di un'indagine per soldi presi che non doveva prendere dall'Europa. È andata bene invece a Riccardo Nencini, attuale vice ministro ai trasporti, che secondo l'indagine europea deve restituire 455.000 euro per viaggi non regolari e contratti degli assistenti. Poi Nencini, dopo un lungo iter giudiziario, è stato salvato dalla prescrizione. E anche Antonio Panzeri ha fatto ricorso presso la Corte di fronte a una richiesta di rimborso da 83.000 euro. Ma ha fatto ricorso. Eccoli qui. Comi, la grillina Aiuto, gli italiani nel mirino, ma tutti, insomma, lo scandalo dei rimborsi all'Unione Europea. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alino Milan, il biondo dell'informazione che fa impazzire il mondo. Allora, alle 7:36 minuti, ecco, è partita l'idea. Di tutti quelli che hanno le soluzioni, perché non si fanno figli? Non si fanno figli perché non c'è lavoro, non ci sono soldi. C'è chi dice: non dite che non si fanno figli perché c'è la crisi e non c'è lavoro, non ci sono i soldi, non si fanno i figli perché sono faticosi, sono responsabilità, sono impegnativi. Non lo so, non si può dare una ricetta unica. Ognuno non fa figli se sceglie di non fare figli, magari perché non ce la fa, magari ci prova e non riesce, magari decide di non farlo per motivi economici, quello che non si sente abbastanza genitore, quello che non vuole responsabilità. Ci sono motivazioni diverse. Diciamo, il demografo registra i dati, le statistiche. Comunque, visto che tirate in ballo la questione soldi, la questione lavoro, la questione povertà, che sicuramente è un tema per molti dirimente, vi sottopongo questi due articoli. Il Messaggero, Diodato Pirone, pagina 11, il piano contro la povertà per 2 milioni di italiani. Tra oggi e domani il Senato approverà una delega con aiuti fino a 400 euro al mese. Lo chiamano welfare non assistenziale, che tradotto vuol dire lo Stato, o meglio il servizio sociale del comune, distribuisce un po' di denaro ai poveri in cambio di un contratto per farli uscire dal loro stato di difficoltà. Magari certificando il ritorno a scuola dei figli di una famiglia difficile, oppure facilitando il ritorno al lavoro di un disoccupato cronico o di chi ha avuto la sventura di perdere il posto dopo i 55 anni. Questa è la scommessa della legge delega sulla povertà che il Senato approverà tra questa sera e domani in via definitiva. È l'ultimo ostacolo al varo di un provvedimento abbozzato addirittura nel 2013 con il governo Letta ed è rappresentato da 150 emendamenti presentati dalle opposizioni. Comunque la si voglia giudicare, la legge delega rappresenta il primo tentativo italiano da decenni di affrontare in modo organico il drammatico problema dei poveri, che secondo l'Istat sono ben 4,5 milioni. Come saranno distribuiti questi aiuti, scrive il Messaggero, con una card ricaricabile che si chiamerà REI, reddito di inserimento, e che dovrebbe assicurare alle famiglie coinvolte 80 euro mensili a componente fino a un massimo di 400 euro. I fondi però non saranno erogati a pioggia, saranno i servizi sociali dei comuni a individuare le famiglie in difficoltà, assegnare loro un punteggio in base al reddito e al problema che hanno, a gestire la REI non come un sussidio a perdere, ma come un'opportunità per far uscire dal disagio chi riceve il denaro. In sostanza, come detto, le famiglie aiutate dovranno impegnarsi a mandare i figli a scuola, a farli vaccinare, a frequentare corsi, a frequentare tutto ciò che serve per rimettersi nel mercato del lavoro. Insomma, una sorta di patto sociale tra chi dà i soldi, lo Stato, attraverso i servizi sociali, e chi li riceve. Poi, visto che si parla di contrastare le povertà, il piano per tutti i giovani neoassunti, uno sconto sui contributi, è il piano Gentiloni, che prevede una riduzione di 4-5 punti del costo del lavoro a partire dal 2018. Repubblica racconta con Roberto Petrini una dote contributiva a vita che sarà assegnata al momento della prima assunzione e il dipendente potrà portarsi dietro durante tutto l'arco della propria attività, anche in caso di cambio di lavoro. È questo il piano al quale sta lavorando il governo e dovrebbe consentire di voltare pagina dopo l'esperienza della decontribuzione triennale scattata nel 2015 e oggi in via di esaurimento. L'operazione fa perno sulla riduzione del cuneo fiscale, cioè la differenza tra costo del lavoro e netto in busta paga che viene mangiata dai contributi. Tra le tante versioni in campo, quella che guadagna terreno prevede un taglio dei contributi previdenziali, spalmato sia sulla parte del lavoratore per il 9%, sia del datore di lavoro il 24%, per tagliare i complessivi 4-5 punti. La misura aumenterebbe il netto in busta paga e ridurrebbe i costi per l'azienda. Il costo sarebbe di 3-4 miliardi, dunque molto meno di quanto ha pesato sui conti pubblici l'operazione decontribuzione triennale. Si studia questo? Vedremo. Allora, in tutto l'inchiesta Romeo, perché sei tu Romeo, continua sui giornali. L'imprenditore campano in carcere dice: io non ho mai incontrato Tiziano Renzi, non parla con i magistrati, fa sapere solo questa cosa. Certo, Fiorenza Sarzanini racconta sul Corriere della Sera che ora si comincia a vedere qualche flusso di denaro anomalo, in particolare 8 operazioni sospette che Banca Italia ha svelato estero su estero. Operazioni sospette, racconta Sarzanini a pagina 3, sui conti personali e sui depositi intestati alle società di famiglia. 8 segnalazioni da Banca Italia esaminate dalla Guardia di Finanza che riguardano le movimentazioni bancarie disposte da Romeo attraverso la Romeo London Limited, costituita il 20 novembre 2015. Poi la Romeo Partecipazione SRL, che ha dato disposizione di trasferire alla Romeo London sul conto corrente acceso di recente presso la filiale Intesa San Paolo di Londra di 108.000 e rotti l'euro, corrispondente a 78 milioni di sterline, 108 milioni scusate di euro, 108 milioni di euro corrispondente a 78 milioni di sterline. La causale indicata: finanziamento soci alla controllata, che utilizzerà la provvista per un importante investimento immobiliare nel centro di Londra. Poi ci sono 400.000 euro in contanti. Insomma, si guardano i soldi, i soldi. Lui, Romeo, dice: mi hanno fregato, non ho mai visto Tiziano Renzi. In tutto, Tiziano Renzi fa uno sfogo in piena regola. Ormai non parla, a parte ieri il Corriere della Sera. A Mediola Mattina racconta sulla Stampa di uno sfogo di un papà che dice: è un incubo, ormai soffro come un cane, mi è venuta la tachicardia, la verità è che vogliono colpire mio figlio Matteo e questo fa aumentare la mia sofferenza. Ma è anche uno scontro tra giornali ormai, perché oggi La Verità e Libero incrociano le lame in un duello epocale tra giornali che sono nati in qualche modo l'uno dall'altro, nel senso che Maurizio Belpietro, estromesso da Libero, ha fondato La Verità. E oggi, da alcuni giorni c'è questa accusa. Oggi Libero attacca così in prima pagina. Romeo ha finanziato attraverso la fondazione Magna Carta del senatore Quagliariello, ha finanziato La Verità con 50.000 euro. Eccolo qua, prima pagina di Libero. I soldi di Romeo a Belpietro li ho portati io, Quagliariello. Risponde La Verità. Questo sempre in prima pagina. Angelucci, cioè l'editore di Libero, ha comprato la casa di Verdini in difficoltà. Intercettata dai carabinieri, una conversazione tra il faccendiere amico di Renzi e l'imprenditore Romeo finito in galera. In ballo un appalto. Il re di cliniche e giornali, Angelucci, diceva in qualche modo rientrare. Quindi accuse, controaccuse tra giornali sulla vicenda Romeo. Qualcuno accusa anche te, caro Mauro Meazza? Buongiorno intanto. Buongiorno, ma non lo so, spero di adesso no. Fammi spulciare un attimo, sono carte copiose. Prova a controllare, può essere sicuramente che io abbia, a mia insaputa naturalmente, ovvio. A mia insaputa, ma anche a tua insaputa se non leggi con attenzione il Sole 24 Ore di oggi, ad esempio. Non so se hai colto che c'è stato questo importante movimento nel mercato automobilistico, come queste nozze tra Peugeot e Opel, quindi un movimento importante di cui riferiamo appunto non solo a pagina 3 con il dettaglio dell'operazione, ma anche a pagina 2 sugli sviluppi industriali europei della vicenda. A proposito di Europa, sì. Hai visto che c'è stata questa apertura sostanziale per le due velocità, insomma l'N velocità, il che significa che su alcune cose forse l'Europa potrebbe viaggiare un po' più velocemente di quanto accade ora, ma ti spiega tutto come sempre. Il Sole 24 Ore oggi, in particolare Marco Mussanetti, ne riferisce a pagina 5. Ti voglio anche dire che oggi abbiamo un Matteo Renzi che ci scrive di banche sul Sole 24 Ore, parlando della riforma dei popolari, e tra l'altro ti segnalo che in coda dice la legislatura, abbiamo ancora 12 mesi di legislatura, non so se questo è un segnale politico che possiamo interpretare. L'intervento poi in realtà è dedicato a difendere, a rappresentare l'utilità, a giudizio di Matteo Renzi, appunto, della riforma delle popolari, ma è da meditazione, te lo segnalo così per le tue letture meditative e anche dei, naturalmente, degli ascoltatori. Oh, lo sai che Facebook copia? Sì? Lo sai? Se leggi norme e tributi religiosamente, come devi fare, vedrai che in un tribunale a Milano è stata dichiarata la colpevolezza di Facebook per aver copiato la app di una software house appunto lombarda. Adesso siamo al primo grado, naturalmente il colosso respinge tutte le accuse, ricorrerà, però i giudici hanno detto no, purtroppo quella app lì l'avete proprio presa uguale da altri. Leggi su norme tributi, dove vedrai anche, voglio avvisare i fratelli fumatori, invitando, naturalmente cerchiamo tutti di smettere, attenzione perché ci potrebbero far la multa. L'hai detto poco convinto però. Ma no, lo devo dire. C'è come quelle cose che vanno dette per contratto. Sì, l'ho detto un po' per contratto, hai ragione, però invece è ovvio che è un vizio molto molto pericoloso. Oh, pericoloso perché si può anche prendere la multa se tiriamo il mozzicone per terra. Sì, certo, ma non farmi ridere. Quanti ne ho visti io, gente che butta a Milano tranquillamente, ma tu hai mai visto una multa? Ma non farmi. Usiamo i cestini perché i comuni potrebbero usare il ricavato delle multe. Torniamo a questa vecchia cosa. Sai cosa ho detto io? Non ci sono i cestini. Sai cosa ho detto io? Ho risposto io: ingoiatelo. Addirittura? Sì. Democraticamente. Democraticamente però. Non ho capito perché devi buttarlo sul marciapiede se non c'è il cestino, se non c'è il coso per spegnerlo. Senti il tombino. Impara a fare il fakiro e ingoialo, no? Che ti farà bene. Non vorrei trascinarti in una discussione che potrebbe avere esiti anche in Fausti, anche da parte del mio avvocato. Okay, voglio ricordare che oggi è martedì, non so se l'hai dimenticato. Quindi la pagina di condominio, non solo oggi è un martedì speciale, il termine per inviare i dati all'Agenzia delle Entrate da parte degli amministratori, come rimediare eventuali errori dell'ultimo minuto, lo trovate nella pagina di condominio di oggi. E poi sono andate bene le entrate tributarie del 2016, trainate, guarda un po', soprattutto dalla voluntary disclosure. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, adesso quasi quasi vado a buttare un mozzicone, sì, così, esatto, dal balcone, esatto, giusto per farti pregio. Sei un terrorista. Un teppista, un teppunato di teppismo vero, di teppismo vero, e soprattutto traffico! Alessandro Milan, il Sancho Panza dell'informazione. Va bene, come ci ha detto, giusto, vedi, vedi quelli che raccontano e ci dicono, vendono a 3 eurini, caro Meazza, io te ne presto 2, se vuoi, per una volta, vendono i posacenere tascabili, te li prendi, prenditelo, compralo, e se no, ingoiatelo il mozzicone, va bene? Oh, e così, come Mauro Meazza, tutti quanti, oggi quando lo vedo al bar, gliene canto 4, ok? Va bene. Allora, dicevamo, Renzi, che scrive appunto questa lettera al Sole 24 Ore, come ci ha detto Mauro Meazza, che si ingoi il mozzicone, virgola, virgola, e ha cambiato verso. In questa lettera dice: abbiamo 12 mesi di legislatura, eccetera, e infatti anche il Corriere della Sera racconta con Maria Teresa Meli, Renzi cambia verso, il governo può arrivare al 2018, sembra questo l'orizzonte. Sparito dall'orizzonte le elezioni anticipate, aspettate, oggi è martedì, domani che è mercoledì, chissà. Allora, lasciamo questa vicenda, qualche notizia di cronaca qua e là. Intanto vi voglio segnalare il reportage molto intenso di Giordano Stabile dall'Iraq. Sono in prima pagina della Stampa, poi continua a pagina 10 e 11. Cosa racconta la Stampa? Racconta le croci sfregiate, le chiese profanate, quel che resta dei cristiani in Iraq. All'ingresso della canonica della chiesa di Markiriakos a Batnia c'è la statua di una Madonna decapitata. I combattenti dell'ISIS che vi hanno bivaccato per 2 anni e mezzo l'hanno lasciata lì in mezzo alla porta sfondata, forse come monito. Dentro ci sono scritte in arabo sui precetti del Corano e altre in tedesco di qualche foreign fighter europeo. Merdosi schiavi della croce, vi uccideremo tutti, questa è terra di Islam, non c'è posto per voi, questa è una delle scritte. I 5.000 abitanti cristiani caldei sono fuggiti. Batnia è una città fantasma, neanche un cane randagio. Padre Salar scuote la testa, prima qui erano tutti cristiani, non so quando torneranno e quanti. Molte famiglie sono fuggite all'estero e bisogna ricostruire da zero. Inizia così questo intenso reportage appunto dal nord dell'Iraq, dopo i massacri dell'ISIS, la fuga dei fedeli, e si parla di vera e propria pulizia etnica nei confronti dei cristiani. Invece, notizia di cronaca, ricordate la vicenda di Martina Levato e Alexander Böttcher, condannati per aver gettato l'acido a Milano su alcune vittime. Ebbene, il loro figlio, il figlio nato, non si può neanche dire più loro perché non è più loro, è stato loro tolto, il figlio nato dalla loro relazione, verrà dato in adozione e non tornerà mai più a loro. Il giorno dedica, ormai i giudici hanno deciso, coppia dell'acido, via il figlio, sono incapaci di fare i genitori. I giudici dicono sarà adottato, avrà una vita serena. Anna Giorgi racconta pagina 12 del giorno, sarà adottabile e quindi avrà presto una nuova famiglia, il bimbo nato dalla relazione folle e malata tra Alexander Böttcher e Martina Levato, la cosiddetta coppia dell'acido. I due hanno personalità patologiche legate tra loro dalla perversione e sarebbero quindi inadeguati a fare i genitori. Così la decisione della Corte d'Appello, che ha confermato la sentenza con la quale già nell'ottobre scorso anche il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato adottabile il piccolo nato a Ferragosto del 2015. Ed ecco dunque la decisione anche su Libero. La faccio vedere, eccola qui, in diretta, sulla mia pagina Facebook. Oh, il calcio invece saluta una grande svolta, la conferma di Tavecchio, le banane, Optipobà, quella roba lì ai vertici del calcio. Tavecchio bis, ora viene il difficile, la Federcalcio è in mano ancora a Carlo Tavecchio, che aveva già pronosticato vincerò con il 54%, aveva dichiarato, e effettivamente ha vinto con il 54%. Tutti i giornali raccontano, anche con qualche nota critica, questo calcio che non svolta, diciamo, ha battuto a Bodi. Siamo alla carta costa, l'articolo più inutile trovato sui giornali. Ieri una straordinaria intervista a Ernst Knamm, che non ho fatto in tempo a leggere, di Eleonora Barbieri, che però oggi vince sul giornale la carta costa, l'articolo più inutile, ogni cosa a suo tempo, un libro sul giorno perfetto, i bioritmi. Voi vi sentite più lupi, caro Peter, ti senti più lupo? Il lupo è un cacciatore notturno, sono quelle persone creative che vanno a letto tardi e si svegliano a fatica alle 7. Oppure ti senti più orso? Gli orsi sono quelli che dormono bene, cacciano quando capita e finché c'è luce, amano divertirsi, sono socievoli. Ma come si dice sei un orso? No, ho capito, fino a quando ti dicono sei un orso per dirti, vabbè, non si capisce niente. Sei più leone? Il leone che è quello che va a caccia al mattino e quindi si sveglia presto. Oppure sei più delfino? Gli insonni. Cosa ti senti tu, Peter? Ma chi se ne frega!